figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buon pomeriggio da Valentina Furlaneto, buona festa degli innamorati a tutti. La puntata di oggi, speciale di San Valentino, è dedicata all'affettività, alle storie d'amore, alla vita di coppia delle persone disabili e anche alla loro sessualità, argomento spesso trascurato sul quale ci sono ancora al giorno d'oggi dei tabù. In Italia i disabili sono circa il 5% della popolazione, poco meno di 3 milioni di persone e molte di queste sono in coppia, vorrebbero esserlo o lo sono state. Certo, vive una storia d'amore, ad esempio, su una carrozzina non è sempre semplice, non siamo degli ingenui. Esistono frustrazioni, delusioni, difficoltà che queste persone incontrano, che vanno dal fatto di non potersi magari preparare, uscire da soli per andare ad un appuntamento, a cose più gravi come ad esempio la frustrazione di non riuscire sempre a condividere con qualcuno una storia d'amore. Molte di queste persone però stanno vivendo un momento particolarmente felice, sono stati così gentili da voler condividere con noi le loro storie d'amore. Una di loro è Francesca, che ha 25 anni, vive una storia da 6 anni con un giovane di origine senegalese. Sentiamo. Ci siamo conosciuti tramite mia mamma, che è per un lavoro, mia mamma ha uno studio tecnico e ho fidanzato, era venuto a cercare un appartamento da affittare, avevamo già un suo zio, un amico di diversi anni della famiglia e ci siamo conosciuti in questo modo, insomma. Nessuna difficoltà dal punto di vista dei genitori vostri? No. No, assolutamente. Io non ho mai conosciuto personalmente i suoi genitori, però sono in contatto telefonico e sono stata accolta, insomma, benissimo. Anche i miei genitori hanno alcun problema. Invece il mondo esterno come accoglie la vostra storia? Ci sono anche dei pregiudizi, immagino. Esatto, sì. Tante volte, insomma, abbiamo trovato persone che non riuscivano a vedere l'amore che c'era in questo rapporto, bensì ci chiedevano se lui era il mio badante, se io era il mio babysitter, insomma, non molte volte si vedeva giustamente la persona che aiutava la persona disabile in carrozzina. Insomma, anche questo ha ferito molto di due, perché insomma noi comunque siamo una coppia come tutte le altre, con i nostri progetti, le nostre difficoltà. E capire che la gente non riuscisse ad andare oltre un po' ci feriva, però insomma noi procediamo sulla nostra strada con il nostro futuro avanti così. Possiamo chiederle, Francesca, qual è la sua disabilità? Sì, ho una malattia neuromuscolare, una atrofia muscolare spinale del terzo tipo che le impedisce di camminare, diciamo. Di camminare, esatto, sì, è una debolezza comunque a tutti i muscoli. Quindi sono in carrozzina, uso una carrozzina elettrica da circa 20 anni, insomma. Quindi non dalla nascita? No, mi è stata diagnosticata all'età di 3 anni, ho camminato fino a 6 anni, dopodiché mi sono rotta il femore, quindi insomma si è un po' accelerato il decorso della malattia, però insomma sono in carrozzina comunque dall'età di 6 anni. In radio purtroppo non possiamo vederlo, ma lei è anche una bella ragazza che della visibilità del suo corpo ha fatto anche una lotta. Ci sono delle foto su internet che lo testimoniano. Sì. La fotografia è una mia passione, quindi ho trovato un fotografo molto disponibile che mi ha proposto di creare questa campagna di sensibilizzazione che si può vedere sul mio sito Rifletti, e da lì è partita una serie di collaborazioni in ambito fotografico che insomma mi piacciono molto, mi diverte molto e comunque si riesce a trasmettere dei messaggi importanti che sono servite insomma ad aiutare anche magari altre persone un po' più chiuse. Questo mi ha fatto enormemente piacere. Ho trovato anche delle difficoltà da parte di diversi fotografi. Al momento che mi proponevo per posare per diversi servizi, tante volte comunque rifiutavano, trovando scuse del tipo ma che non sappiamo come sarà il risultato, e questo insomma feriva abbastanza, fino a quando con il fotografo insomma che ha realizzato la campagna me l'ha proposto direttamente lui, anzi, e questo insomma mi ha aperto il cuore, perché ho trovato una persona comunque disponibile a portare avanti con me questo progetto su questo tema. Ora sto collaborando con un'altra fotografa per altri progetti sempre sul tema disabilità, sessualità, insomma un po' più semplice ora, anche se comunque, ripeto, diverse volte ci sono stati momenti di difficoltà. E nel rapporto d'amore, nella visibilità che avete, lei e il suo fidanzato, avete mai incontrato dei pregiudizi? Sì, ci è successo, come c'era successo un episodio a Roma dove il mio fidanzato mi stava aiutando ad accompagnarmi in bagno, un signore insomma ci ha accusato, ha chiamato la polizia perché pensava che sta succedendo chissà che cosa in quel bagno, insomma, nei confronti di un ragazzo comunque straniero. E questo, insomma, mi ha ferito molto anche il mio fidanzato, comunque non ha capito il gesto comunque di naturale di aiuto che mi stava portando. Ma non ci sono solo gli amori dei ventenni, ci sono anche coppie di lunga data, come quella formata da Maria, 66 anni, e Giancarlo, 60 anni. Condividono la stessa patologia, tetraparesi spastica, per un trauma alla nascita. Condividono anche una laurea in psicologia e un matrimonio. Sentiamo allora da Giancarlo come si sono conosciuti. Noi siamo incontrati in montagna. Dove io ero in vacanza, Quanti anni fa? 75. Ci vedevamo un po' di qua, un po' di là, perché io abitavo a Mantua con mia mamma, ma lei abitava a Torino, e quindi ci vedevamo un po' in tutte le città d'Italia. Che cosa l'ha colpita di sua moglie? La dolcezza. La dolcezza. Mia moglie è molto dolce. Quando vi siete sposati? Ci siamo sposati nel 78. Mi siamo andati a abitare a Rimini, in una comunità, e io ho cominciato a lavorare come psicologo nella comunità, e mia moglie faceva anche lei la psicologa. Le famiglie non sono state proprio contentissime all'inizio? No, perché la mia famiglia non condivideva le cose, perché beh, un po' per paura, perché mi dicevano: ma come fate? Non potete stare da soli. Quindi abbiamo avuto un periodo molto difficile, perché ci incontravamo quasi clandestinamente. A quell'epoca, ma ancora oggi, il disabile non gli è dato tanto il diritto di potersi innamorare o di più di avere una vita sessuale. Le dico una cosa molto interessante: per sposarmi in chiesa il vescovo di Rimini ha voluto un documento di un ginecologo che noi due potevamo avere rapporti sessuali. E per la puntata di oggi è tutto. Io vi do appuntamento domenica prossima, sempre alle 14:15, sulle frequenze di Radio 24. Buona domenica e buona serata a tutti da Valentina Furlanetto.